a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Bentrovati e buona giornata da Francesco Galante, nuovo appuntamento di A Regola d'Arte, grazie alla collaborazione di Blu Radio Veneto con l'Unione Provinciale Artigiani di Padova. L'argomento che trattiamo oggi tocca il mondo dell'estetica e dell'acconciatura, quindi vado a salutare Sabrina Carraro, delegata della categoria estetica dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e vicepresidente del sistema di categoria acconciatura ed estetica, che è con noi al telefono. Benvenuta. Grazie e buongiorno a tutti e ringrazio per l'invito e l'occasione di poter parlare, esprimere le motivazioni, le esigenze in realtà di una categoria così ampia e importante nel territorio, nell'associazione. E infatti parliamo proprio del mondo dell'estetica e dell'acconciatura, perché poi quando parliamo di estetica parliamo anche di piercing e tatuaggi. Io non tenevo conto di questa cosa e siamo qua proprio oggi a parlare del fatto che la categoria promuove un corso per esercitare correttamente l'attività di piercing e tatuaggi. Ce lo vuole raccontare? Sì, è una conquista e una cosa importante per quanto riguarda la categoria, ma l'associazione in particolare, nel senso che il mondo del tatuaggio si diversifica tra la dermopigmentazione atta a migliorare i contorni del viso in termini di sopracciglio, contorno labbra, contorno occhio prevalentemente, e poi quello che è il tatuaggio decorativo. Però c'è un pochino, c'è una sorta di vuoto legislativo per quanto riguarda il tatuatore, proprio tatuatore, sì. Perché l'estetista ha già una legge che norma la sua attività anche in questo senso. Il tatuatore ha bisogno di fare un corso di abilitazione che fino a 2 anni fa veniva evaso dall'ente regione presso l'Istituto di Prevenzione. Invece poi si vede che la regione non è più riuscita a instaurare i corsi per i tatuatori, quindi rimanevano un po' in una sorta di limbo, per cui possono aprire le attività ma non hanno i requisiti. E quindi insomma, è giusto che anche per queste persone che sono dei contribuenti ormai importanti, perché nel sociale vediamo non c'è nessuno che non abbia un tatuaggio, neanche le persone anziane, sinceramente è così. Ah sì, quindi, prende sempre più piede il tatuaggio, quindi. Sì, almeno uno magari ha tatuato un sopracciglio piuttosto che un eyeliner o la rosa sulla caviglia, ma vediamo che insomma i giovani non ne parliamo, è ormai una consuetudine. Però giustamente l'Unione Artigiani ha provveduto anche a tutelare non solo chi affaccia e interagisce con il tatuatore, ma il tatuatore stesso che abbia i suoi requisiti. Quindi per noi insomma è importante avere questo corso tra i nostri servizi. Ecco, quindi il corso tra l'altro credo parta nelle prossime settimane e c'è la possibilità di informarsi e di chiedere lumi proprio all'UPA. Certamente, contattando proprio UPA si trova facilmente in internet, il sito internet dà le informazioni, anche chiamando alla segreteria generale poi viene indirizzato alla formazione che raccoglie le adesioni, assolutamente sì. Ecco, parlando proprio di tatuaggi, di piercing, quindi è un'attività questa che ha un futuro? È già un presente e quindi il futuro ahimè è un pochino difficile ipotizzarlo, sì, in questi tempi, però sicuramente è un presente. Ci sono aziende importanti anche con più addetti, ognuno si occupa di una branca, quindi dal disegno al proporre al cliente, a esprimere il desiderio del cliente fino all'attuazione vera e propria, quindi all'esecuzione reale con poi tutti i requisiti sanitari, quindi direi che è un bel presente e non certo. credo che possa essere diversamente da così, insomma. Benissimo, può quindi solo salire. Certo, è interessante, insomma, magari per chi volesse iniziare un'attività del genere ha le capacità grafiche, potrebbe essere un'idea. Parliamo. Ma assolutamente, anche perché è molto importante anche la formazione, anche per poter eseguire anche negli altri paesi. I tatuatori sono veramente cosmopoliti. Certo, è interessante. C'è un'altra questione che vorrei toccare con lei per la figura del onicotecnico, che sarebbe colui il quale ricostruisce le unghie, giusto? Sì, l'onicotecnica è una figura che fa parte dell'attività dell'estetica ed è anche questa un'attività inserita all'interno dell'estetica globale che eroga dei servizi, insomma, che ormai sono una consuetudine, una costante nei nostri centri. Ahimè, è anche una delle attività, e qui posso sollevare veramente un copertone, ed è una piaga, perché purtroppo è anche una delle attività che si presta molto all'abusivismo. Sì. Perché richiede tutto sommato una formazione non così importante, ahimè, e richiede soprattutto un investimento quasi ridicolo se parliamo di una cosa che viene fatta così su un tavolino senza tutto quello che invece comporta una reale azienda. Ecco, ahimè, è così. Ho capito. In più c'è anche un problema legislativo che è capitato in Veneto. Sì, purtroppo c'è questa delibera da parte della regione, cosa che tra l'altro noi come categoria, ma non solo, effettivamente è così, riteniamo illegittima, perché non è la regione che può fare una nuova legge, ecco, insomma la legge la fa lo Stato, non la fa la regione. E quindi la delibera comporterebbe il fatto che l'onicotecnico diventa una figura a sé stante e potrebbe aprire un'attività. Questo, prima di tutto, noi lo consideriamo illegittimo. Secondo, riguarderebbe solo la regione Veneto e non è una legge dello Stato. Ecco, perché spieghiamolo bene, la regione Veneto avrebbe introdotto nell'ordinamento regionale questa figura professionale dell'onicotecnico, una figura che non esiste poi a livello nazionale. Quindi una persona che ha questa carica di onicotecnico potrebbe aprirsi un negozio a tutti gli effetti. Teoricamente questo è stato deliberato, però noi come categoria ci stiamo opponendo proprio a livello nazionale a questa cosa, perché intanto non è corretto per una categoria già esistente e che fa una formazione importante e che comunque ha una legge, non è giusto nei confronti delle aziende esistenti e non è giusto neanche nei confronti dell'utente finale, che ha diritto ad avere una persona completamente formata. Per quanto mi riguarda, penso anche che non sia giusto per chi apre un'attività, che deve essere assolutamente consapevole di che cosa vuol dire fare impresa. E quindi noi pensiamo che sia il caso magari di fare una modifica anche nella legge e pensare a una formazione di importanza minore per quanto riguarda un onicotecnico, se vuole esclusivamente esercitare l'attività di onicotecnico, però che non possa esimersi da conoscere l'ABC e da averne i requisiti per un'attività che deve aprire. Certo, quindi deve essere formato proprio nel mondo dell'estetica anche, no? Assolutamente, perché è da lì che nasce. Certo, è una branca, è un settore. Non è che una persona che si occupa di unghie si occupa di un'altra cosa, si occupa dell'annesso cutaneo che fa parte dell'attività dell'estetica, da qua non si scappa, non è un'altra cosa. Ecco, quindi voi Confartigianato vi siete opposti a questa figura che è stata decisa dalla Regione Veneto e adesso vedremo, insomma, come si evolverà la situazione. Sì, è stato fatto un ricorso, quindi vedremo come evolverà. Ci fermiamo un attimo per una bella canzone insieme. Don't let me stay on your mind. just a stairway in conversation. We were always so damn insecure. So how could we ever know for sure? And disregard the way I know we feel. That would make this city way too real. If we bump into each other on a crowded street, it's not us no more, it's just you and me. We're just strangers in passing, casually. It's not us no more, it's just you and me. Oh yeah. With the rips, yeah. Gems in my golden necklace. You didn't give me none of this, no. There's nothing for me to miss. We were too young on the day we met. How could we say we would not forget? And in the shadows there's a place for us. Somewhere find our love, don't let them know. If we bump into each other on a crowded street, it's not us no more, it's just you and me. We're just strangers in passing, casually. It's not us no more, it's just you and me. Oh yeah. It's just you and me. This shit is dead and gone. It's not what it used to be. Someone give a eulogy. No, I'm hard-headed and I might have acted foolishly, but you the one to hold us down usually. Yeah, we was in a limbo, but of all people, you ain't had to fuck with him, no. That was my homie, I gave y'all the intro. Some things fall apart and some get thrown out the window. Remember when we first met, we might have been too young, but we was from the Bay, so we both was going too dumb. I used to be the one for you, now you got a new one. So to the next lifetime, maybe we could do some. If we bump into each other on a crowded street, it's not us no more. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Eccoci di nuovo insieme con l'appuntamento di A Regola d'Arte. Stiamo chiacchierando con Sabrina Carraro, delegata della categoria estetica dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e vicepresidente del sistema di categoria acconciatura ed estetica. Adesso Sabrina, parlerei con lei di una cosa interessante che come categoria seguite da moltissimi anni ed è uno sguardo che voi volgete con un'attività di volontariato all'interno dell'OPSA, l'Opera della Provvidenza di Sarmeola di Rubano. Noi da parecchio tempo siamo stati coinvolti in una sorta di assistenza agli ospiti dell'OPSA, quindi i nostri parrucchieri e i nostri operatori nell'estetica, chi si occupa di andare mensilmente a ristorazione, viene fatto un calendario per gli associati che aderiscono, si prestano ad andare a tagliare i capelli, ad andare a fare le acconciature a queste persone che già insomma sono state meno fortunate, e quindi ad avere comunque un bel aspetto anche all'interno di questo istituto. Per quanto riguarda l'estetica, il servizio di pedicure, perché è una cosa di cui hanno molto bisogno effettivamente, quindi viene organizzato questo calendario e si presta alla propria opera come volontariato, è un'esperienza molto molto bella e molto gratificante, da consigliare a chiunque, secondo me. È giusto che anche queste piccole cose, che in questo caso toccano la vostra categoria, si sappiano e che la gente possa apprezzare quest'opera di volontariato utile. Un'opera di volontariato che poi si sposta anche presso un'altra fetta di popolazione, ahimè, persone che sono colpite da tumore, che quindi devono subire delle cure e con queste quasi sempre perdono i capelli. Sì, questa iniziativa, che è una cosa molto particolare, riguarda moltissimo il sociale, purtroppo ormai, è nata proprio da, ahimè, un'esigenza di uno dei nostri associati, un nostro parrucchiere, che qualche anno fa si ammalò di questa malattia e vise proprio in prima persona i disagi delle terapie, che pur sono salvavita. E quindi, in collaborazione con una psicologa dell'Istituto Oncologico Veneto, sono riusciti a mettere in piedi, diciamo, e in più i volontari dell'AVO, sono riusciti a mettere insieme un'associazione ulteriore, insomma, all'interno dell'istituto, che si chiama Non smettere di piacerti. E anche qui chi dell'associazione, degli associati, se la sente e può farlo, dedica del tempo a queste persone, aiutandole in questo percorso doloroso, perché purtroppo le terapie, la chemioterapia purtroppo di tipo ormonale, comporta sempre la perdita temporanea dei capelli. Però, per quanto riguarda specialmente la donna, è piuttosto duro come momento psicologicamente da affrontare, al di là dello sternale. Quindi i nostri parrucchieri assistono nella scelta della parrucca, piuttosto che nell'aiutare ad acconciarsi con qualche foulard o delle bandane. Insomma, ci sono molti modi, insomma, per fortuna la moda aiuta, quindi c'è questa assistenza alle pazienti che lo desiderano, ai pazienti che lo desiderano. Si insegna ad indossare o a scegliere una parrucca per potersi muovere bene nel sociale e sentirsi comunque a proprio agio, andare al lavoro, vivere nel contatto con gli altri. E per quanto riguarda l'estetica, imparare a truccarsi, perché quando cadono le ciglia e le sopracciglia, naturalmente ci sono modifiche del proprio aspetto. Quindi anche questa è è importante come servizio. E soprattutto si fa una formazione molto interessante con il ramo della psicologia e dello yoga, quindi ancora una grande crescita per noi e per l'attività nel sociale. Bellissime iniziative che, insomma, meritano di essere messe in luce. Sì, importantissime per tutti. E terminiamo quindi questa nostra interessante chiacchierata grazie a Sabrina Carraro, delegata della categoria estetica dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Grazie a voi e alla vostra emittente per aver messo in luce quanto si può fare di importante per quanto riguarda l'estetica e l'acconciatura, che non è solo effimero, ma è veramente ormai importante nel sociale. Prima di salutarci vi segnalo alcuni servizi dell'UPA con lo sportello Energia. Sconti nelle bollette di luce e gas per le famiglie degli imprenditori, per i dipendenti e per i pensionati artigiani sono possibili grazie all'accordo tra Unione Provinciale Artigiani e AIM Energy. La convenzione farà risparmiare le famiglie il 20% sul prezzo dell'energia e il 13% sul prezzo del gas. È previsto un bonus di 5 euro per l'autolettura del contatore gas. Per informazioni, sportello Energia allo 049 8206 385. Sempre allo sportello Energia c'è il servizio di analisi della bolletta elettrica e del gas della propria azienda, che aiuta ad avere le migliori condizioni dei fornitori del mercato libero. Grazie alle condizioni CAEM, il consorzio promosso dalla Confartigianato del Triveneto, sono state sviluppate mediazioni utili a ridurre del 17% il costo dell'energia, nonostante l'aumento delle tariffe in generale. Segnaliamo anche l'SOS Telefonia, un servizio gratuito di analisi sulle bollette telefoniche aziendali, fisso, mobile e internet per abbattere i costi. Una consulente dell'UPA analizzerà le vostre bollette e verrà a trovarvi in azienda per proporvi soluzioni alternative per un maggior risparmio in bolletta. Il servizio è in convenzione con Ebisu. Associandosi all'UPA si potrà usufruire anche di alcune assicurazioni a prezzi e coperture davvero vantaggiose. Per esempio la polizza RC Auto scontata del 30%, assicurazioni personalizzate a condizioni molto favorevoli per installatori di impianti, edili, istituti di estetica e autotrasportatori. E infine sono numerose le convenzioni che Confartigianato Nazionale offre ai propri associati. Si va dall'acquisto di autovetture o veicoli commerciali delle marche più conosciute a sconti per i buoni pasto, abbonamenti SIAE e SCF a tariffe agevolate per l'acquisto della carta ACI. Per altre informazioni, ufficio promozione e sviluppo d'impresa allo 049 8206 150. Ed è veramente tutto. A Regola d'Arte torna la prossima settimana su queste frequenze a quest'ora. Grazie a tutti da Francesco Galante. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.